24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:31 minuti, siamo qui, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 con 24 mattino. E allora, il sondaggio nostro di oggi parla di carceri, perché c'è una proposta voluta peraltro dal ministro Alfano, fortemente sostenuta, questo disegno di legge che prevede tra le altre cose quello di concedere l'ultimo anno di pena da scontare ai domiciliari. Questo per risolvere il problema delle carceri affollate. Ieri il ministro Maroni ha detto: è peggio di un indulto, è una cosa sbagliata. Parliamo di questo, che ne pensate? Fare l'ultimo anno di pena ai domiciliari invece che in carcere, in modo da risolvere il problema che c'è, è concreto, del sovraffollamento delle carceri. Votate su radio24.it, siete d'accordo con questo piano svuota carceri, qualcuno ha definito così, oppure pensate, come dice Maroni, è peggio di un indulto. Radio24.it per votare, ne parleremo poi alle 8:30. Questo è un tema che trovate sui giornali, che crea anche qualche frizione politica all'interno della maggioranza, non è il problema principale politico però. I giornali per l'appunto. In primo piano. Giovedì 6 maggio, dunque, intanto la Grecia in situazione davvero drammatica. Rivolta in Grecia contro l'austerità è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, ma un po' i vari quotidiani scelgono questo oppure le vicende politiche italiane. Per il Corriere, Atene sconvolta dalla guerriglia, uccisi 3 bancari. Repubblica, Grecia in rivolta, guerra nelle strade. Per la Stampa, guerriglia ad Atene, 3 morti tra le fiamme. E poi ci sono i classici, insomma, tragedia greca per l'Unità, Atene brucia per il Quotidiano Nazionale. E ci sono proprio le immagini delle fiamme, no? Un poliziotto avvolto dalle fiamme di una bomba Molotov. La politica invece, il Messaggero, appalti, Verdini indagato. Per il Fatto Quotidiano, fuori Scajola restano 7 gli inquisiti di governo. Poi Libero, gli altri furboni della casa, ma anche la vicenda Verdini con il titolo emblematico E2, cioè dopo Scajola, E2, Verdini. E il giornale, D'Alema pagato da Berlusconi, è l'appendice della polemica clamorosa che D'Alema e il condirettore del giornale Sallusti hanno fatto in TV. Come detto però, la Grecia, tra l'altro Oscar Giannino tornerà a parlarne alle 9, la situazione è davvero drammatica, come ha detto il presidente Papoulias, siamo sull'orlo dell'abisso. Leggete la cronaca di Vittorio Darold, inviato ad Atene del Sole 24 Ore, 3 morti nell'assalto alla banca. 3 morti davvero incredibili, cioè l'assalto di alcuni manifestanti, bombe Molotov a una filiale di banca. I morti sono un uomo e 2 donne, una delle quali incinta di 4 mesi. L'istituto di credito preso di mira è quello di Andreas Gnenopoulos. Chi è Gnenopoulos? C'è un ritratto proprio di Vittorio Darold a pagina 3, un uomo imprenditore che fa affari anche nel calcio, si sta distinguendo molto per essere un personaggio considerato contro la politica, si è distinto molto in questi giorni nei dibattiti televisivi per chiedere non l'aiuto dell'Unione Europea, del Fondo Monetario, ma ha chiesto agli investitori arabi di venire in soccorso ad Atene. Pare per qualcuno che voglia entrare in politica, ed è il proprietario di questa Marfin Egnazia, questa banca, una filiale della quale è stata assaltata appunto da uomini incappucciati con bombe Molotov, una tragedia nella quale sono morte 3 persone, come detto. Anzi, insomma, a questo punto, visto che Vittorio Darold dice anche una donna incinta di 4 mesi, insomma, sono 4 di fatto le vite spezzate. Ovviamente, come reagiscono le borse? Pagina 5 del Sole, borse nervose, euro ancora ai minimi, scrive Walter Riolfi. Insomma, alla fine in serata tutto è apparso un po' più calmo perché Wall Street ha un po' placato le perdite, ma ovviamente i mercati europei sono costantemente sotto pressione anche gli altri paesi, perché ora si attende l'onda lunga, no? Per esempio ora c'è il Portogallo, scrive Alessandro Merli a pagina 7 del Sole 24 Ore, nel mirino di Moody's, l'agenzia di rating, che ha annunciato di voler rivedere proprio la classificazione del debito pubblico di Lisbona. Insomma, la situazione finanziaria ma anche sociale, per le tensioni che si preannunciano, immagino anche oggi, tanto che il manifesto titola in prima pagina Fuoco greco, e c'è una vignetta di Vauro, crisi, morire per Atene, morire ad Atene. Insomma, situazione economico, finanziaria e sociale, nello specifico, molto molto tesa. Ma vi rimando, ci sono molti commenti, sia economici, sia sulla situazione, appunto, dal punto di vista della cronaca, sui giornali. Vi rimando a Oscar Giannino alle 9, tra l'altro Vittorio D'Arold in collegamento da Atene sarà anche in diretta. Per quel che riguarda, io voglio andare all'Italia, la politica italiana, la pagina oggi è molto molto ampia, prende la gran parte dei giornali e dei quotidiani che trovate in edicola. La notizia nuova di ieri è che Denis Verdini è indagato per corruzione, uno degli uomini forti del Popolo della Libertà, il coordinatore del PDL. Corruzione, questa è l'accusa, è scritto nel registro degli indagati nel quadro di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia su un presunto comitato d'affari che sarebbe spartito alcuni appalti con le tangenti. Soprattutto il punto, l'elemento nodale dell'inchiesta è è l'energia eolica, alcuni appalti per l'energia eolica in Sardegna, ma non solo. Sarebbero le intercettazioni che avrebbero portato, scrive per esempio a pagina 8 del Corriere della Sera, un intreccio di persone, tra queste l'imprenditore Flavio Carboni, il direttore generale regionale dell'ARPA Sardegna Ignazio Farris, il costruttore Arcangelo Martino, il consigliere provinciale di Iglesia Spinello Cossu, il geometra Pasquale Lombardi, ex magistrato tributario. Attraverso le intercettazioni di queste persone, poi allargando, coinvolgendo altri parlamentari, per esempio Repubblica scrive anche il governatore della Sardegna Cappellacci, deputati del PDL Ignazia Brignani, Massimo Parisi, che tra l'altro è l'ex addetto stampa di Verdini. Insomma, attraverso l'ascolto di queste intercettazioni si sarebbe arrivati a questa inchiesta. È tutto ancora un po' fumoso, ma certo sui giornali la notizia è questa: indagato Verdini. Ma la mia testa non rotolerà mai. Denis Verdini, pagina 7 della Stampa. In questo articolo di Amedeo La Mattina non è una vera intervista, ma ci sono tanti virgolettati. Denis Verdini è lì, a Montecitorio, scuote la folta chioma grigia, l'autore di quel manuale che ha surclassato il Cencelli, fatto di punteggi e calcoli iperprecisi amati dal Cavaliere. Eccolo lì, la mia testa non l'avranno, non rotolerà nel cesto, se la possono scordare, dimissioni, ma neanche a parlarne, non ho né l'abitudine, né la mentalità e la necessità di farlo. E poi questa frase, ci manca solo che Fini metta qui, nel centro del cortile di Montecitorio, una ghigliottina e ogni giorno mozziamo la testa a qualcuno. E Denis Verdini fa il gesto di mettere la testa sotto la lama e scuote appunto la folta chioma grigia. Insomma, Verdini che dice non mi piegherò alle illazioni, alle falsità giornalistiche. Tra l'altro, La Stampa che cosa fa? Io l'ho citato, no? Flavio Carboni, forse un nome che qualcuno riecheggia nelle orecchie. Ebbene, Paolo Colonnello, che è un ottimo, uno dei migliori cronisti giudiziari in Italia, sulla Stampa, ci fa ricordare chi è Flavio Carboni. Prima ancora di essere un faccendiere, così messo tra virgolette, Flavio Carboni, nato a Torralda nel 32, provincia di Sassari, è un vero e proprio snodo delle più misteriose vicende del passato, probabilmente anche del futuro prossimo venturo del paese. Dopo un avvio da discografico dalle scarse fortune, il suo nome compare nei primi anni 80 sulle speculazioni in Sardegna sulla costa di Olbia come socio di un allora sconosciuto imprenditore milanese, Silvio Berlusconi, cui venne presentato da Romano Comincioli, oggi senatore del PDL, come grande amico del cassiere della mafia Pippo Calò, poi come braccio destro del banchiere dell'ambrosiano Guido Calvi, ucciso il 17 giugno 82 a Londra, referente della banda della Magliana, referente dello IOR, la banca del Vaticano. Più Carboni stringe alleanze e amicizie nel mondo degli affari, negli ambienti della massoneria soprattutto, ma neanche nei servizi deviati, più il suo nome circola come una trottola impazzita nei fascicoli di tutta Italia. Vicende giurassiche, si dirà, eppure attualissime. Il file di Carboni sbuca ovunque, dalla P2 al rapimento di Emanuela Orlandi, fino alla mai chiarita vicenda della fuga di Calvi a Londra. Insomma, è lui, Flavio Carboni, al centro di molte vicende politiche, affaristiche, a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica, È lui che ha rispuntato in queste intercettazioni per le quali ha indagato Denis Verdini. La politica, ci saranno due domande, due tarli che continueranno a batterci in testa, anche un po' stancando, ma nei prossimi giorni, che sono: A, c'è un complotto? Secondo Berlusconi, sì. Secondo Fini e Bossi, no. La seconda domanda è questa: si voterà tra un anno? Il clima, secondo molti, sì. Per esempio, Libero, in prima pagina c'è un commento di Maurizio Belpietro, il direttore: quanto può reggere un governo in cui ministri e uomini forti finiscono via via sotto il fuoco della magistratura? Per dirla in milanese, dura minga, cioè dura poco, non dura. È questo su cui tutti stanno riflettendo nelle ultime ore. Per Francesco Bei di Repubblica, il cavaliere Berlusconi è pronto a cercare ormai una drastica rottura con Fini. Per la sondaggista invece del Premier, Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, intervistata comunque qualche battuta sul Corriere della Sera, il clima è quello da vero e proprio linciaggio. E lo si capisce vedendo anche la rissa verbale vera e propria che c'è stata a Ballarò tra D'Alema e il condirettore del giornale Sallusti. Certo, quello che continua è ancora tutto il tema della casa e dell'inchiesta, insomma, che ha travolto, pur non essendo indagato, ma insomma con le dimissioni, il ministro Scajola. Allora, Lunardi, che è la persona un'altra citata da quel autista tunisino che dice: portavo le buste da Balducci e da Anemone, le davo a vari politici, non sapevo cosa ci fosse dentro, ma insomma facevo il factotum e portavo buste qua e là. Lunardi e il superteste, sentite come lo definisce a pagina 11 del Corriere l'ex ministro Lunardi: voi date retta alle parole di un disperato come quello, quell'ubriacone drogato manovrato da chissà chi? Questo mone di 50 anni racconta che Lunardi avrebbe firmato i progetti che gli inviava Balducci per poi affidarli proprio ad Anemone, e voi date credito a questo drogato ubriacone? Falsità assolute. Le avesse detto una persona affidabile, un Berlusconi, per dire, potrei capire, ma così no. Non l'ho mai conosciuto, non so nemmeno di chi possa trattarsi. Dopo aver letto il suo nome ho fatto i miei accertamenti, ho chiesto a chi lo conosceva, e si ferma qui Lunardi. Per il momento non aggiungo nulla. Parla invece a Fabrizio Caccia sul Corriere, per la prima volta, è la prima volta che apre casa, il papà delle sorelle Papa. Le sorelle Papa sono quelle che hanno venduto a Scajola la casa, quelle che dicono nei verbali di interrogatori: abbiamo ricevuto 900.000 euro in assegni circolari Deutsche Bank da Scajola. Io le capisco, Beatrice e Barbara, se vendi la casa a un ministro pensi di stare tranquillo, però dico, come si fa ad accettare un pagamento in nero fatto con assegni circolari? Se mi avessero telefonato avrei dato loro qualche consiglio. Dopotutto faccio il costruttore da una vita. Così parla il papà, appunto, delle venditrici. Io conosco bene quella casa. Peraltro poi dice, sia chiaro, niente di eccezionale, anzi è un appartamento piuttosto scrauso, direi. Mica quelli di Raul Bova e Lori del Santo che stanno ai piani alti. Quelle sì sono case fantastiche. Qui invece stiamo parlando di un mezzanino senza il balcone che insiste sulla strada. Insomma, fa schifo. Non è un posto dove andrei sicuramente a vivere io. Non è nemmeno un posto da ministro. Però, se sono vere le cose che ho letto sui giornali, diciamo che Scajola avrà avuto le sue buone ragioni. A cavaldonato, come si dice, non si guarda in bocca. Questo è il padre delle sorelle Papa. Beh, insomma, la politica continua perché, ripeto, si voterà, chi lo sa. Chi è il prossimo? Questa è l'altra domanda che tengo in sospeso e che dopo il traffico magari otterrà qualche risposta da un'intervista sul Corriere. In primo piano. Voci su di me, io dormo tranquillo. È il ministro Matteoli che parla al Corriere della Sera e vuole fugare le voci che impazzano a Montecitorio, lo danno in qualche modo coinvolto nelle inchieste della magistratura. Sono invecchiato non parlando delle inchieste della magistratura, figuriamoci se posso usare parole come complotto o congiura. La stragrande maggioranza dei magistrati fa il suo dovere. E sulle dimissioni di Scajola Matteoli dice: ho trovato eccessivo il rispetto che ha avuto nei confronti di tutti noi, dimettersi senza senza avviso, un eccesso di zelo. Insomma, c'è una nuova Mani Pulite in arrivo? Questa è l'altra domanda che ci sarà. Chi sarà il prossimo? Ricordate, si voterà forse in primavera e poi è un complotto oppure no? Matteoli dice di no e dice dormo tranquillo. Tiene ancora banco però sui giornali assolutamente la clamorosa rissa verbale che c'è stata tra Sallusti, il condirettore del giornale, che ora dice pretendo le scuse di D'Alema, e D'Alema, quel vada a farsi fottere, che tra l'altro è straordinario, cioè nel mandarlo a farsi fottere gli dà del lei, vada a farsi fottere. Casa D'Alema. Di Annalena Benini sul Foglio, oggi è straordinaria in prima pagina. Massimo D'Alema non aveva mai perso le staffe a quel modo, nemmeno quando si parlava di banche o scarpe. Ma appena gli è stata rinfacciata in TV l'affitto ai Quo Canone, quando gli hanno ricordato che pagava una pigione esageratamente bassa, infatti decise di lasciare quell'appartamento, gli si è gonfiata la faccia, è diventato rosso, feroce, imbarazzato, ha strabuzzato gli orchi, ha urlato «Vada a farsi fottere, mascalzone, bugiardo!» Ti manderanno per premio delle signorine, eccetera, eccetera. Insomma. La casa fa questo effetto, accende e mostrifica, risveglia istinti molto bassi e urla molto alte, provoca liti, lacrime, figuracce, divorzi sanguinosi, perché è un pezzo di vita, è spesso, anzi, la vita intera e riguarda tutti, più delle escort, dei trans, delle consulenze, degli appalti, è la famiglia, la camera della bambina, il risparmio, l'investimento azzeccato, l'eredità, l'esibizione sociale, l'enciclopedia Treccani in vista, il lampadario di Murano, le vetrinette col servizio dei bicchieri, il parquet da tenere lucido e togliti le scarpe che mi fai segni, quando abbiamo i soldi facciamo un altro bagno così. Insomma, la casa è un mondo a parte, sicuro, protetto, e non si può sopportare che qualcuno arrivi a spiarlo, a raccontarne i segreti. Ma nemmeno si può tollerare che un altro abbia una cucina più bella, una vita migliore, un mutuo più basso. La casa è il confronto con gli altri e soprattutto il prolungamento di sé. Quindi strano che D'Alema non abbia menato Sallusti. Questa è Annalena Benini oggi su Il Foglio. Ma d'altronde sul rapporto politici-casa trovate molto. Il giornale è talmente duro che dice D'Alema è pagato da Berlusconi. La teoria è un po' bizzarra. Perché è pagato da Berlusconi? Perché ha scritto 5 libri, no, ben 4 libri con Mondadori. Vittorio Feltri dice chissà quale tipo di compenso ha avuto per questi 4 libri da Mondadori. Compensi, compensi. A proposito di compensi, c'è tutta anche la vicenda. Ciarrapico dovrebbe ringraziare la vicenda Scajola, perché la sua vicenda è un po' tra le pagine, tra le pieghe dei giornali. Ma cito solo pagina 9 del Messaggero: Ciarrapico è accusato di aver percepito illegalmente contributi di 20 milioni dell'editoria. Ciarrapico, nulla tenente, ma intestava beni e yacht ai dipendenti dell'ospedale. Angelo R., così racconta il Messaggero a pagina 9, tirava a campare con lo stipendio di dipendente del Policlinico Casilino, non si sa che vita facesse, portantino, infermiere, amministrativo, una vita monotona, tutti i giorni si sveglia, va al lavoro, sera di nuovo a casa, insomma, vita come molti di noi, ma non sapeva, scoperto in pensione, che era titolare del 95% delle quote di una società, la Brezza Blu SRL, armatrice di uno yacht da favola, valore di 1.600.000 euro, perché questo, secondo la Guardia di Finanza, era il sistema escogitato da Ciarrapico. Cioè, intestare ad altri, ai propri dipendenti, alcune società. Quando ha scoperto tutto il signor Angelo ormai era in pensione. Non so assolutamente nulla. So che ogni tanto andavo dal notaio e mi facevano firmare degli atti già predisposti. Vabbè, trovate molto anche del nostro sondaggio. La legge svuota carceri, peggio dell'indulto, così dice Maroni. E c'è appunto qualche tensione politica anche con Alfano. È il sondaggio che invito a votare. Ne parleremo alle 8.30. Questa proposta per svuotare le carceri sovraffollate, far scontare l'ultimo anno di pena ai domiciliari, ai detenuti. Che ne pensate? C'è tempo solo per una citazione dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Mina, la celebre Mina, è andata in tribunale a Milano. Non le piaceva il fatto che la RAI potesse fare attraverso gli archivi RAI con la TV on demand, far vedere tutte le sue prestazioni del passato, dei grandi, non so, di Canzonissima oppure di alcune trasmissioni televisive che sono disponibili su archivio grazie a un accordo tra RAI e Fastweb, perché ha detto: io voglio i diritti d'autore. Mina, insomma, su internet canta ancora, trasmissioni come Studio 1, Mille Luci, Teatro 10, Sabato Sera hanno segnato la storia della TV, sono disponibili sulla TV on demand, e lei dice: datemi i diritti d'autore. Il tribunale gli ha detto di no, non ha diritto ad avere i diritti, ha perso con sentenza depositata il 14 aprile sul web, diritto d'autore limitato, ne parla a pagina 37 Giovanni Negri, le trasmissioni degli archivi storici RAI accessibili senza compenso agli artisti. Mina, hai perso stavolta. E allora, votate il sondaggio su radio24.it. Eccoci qua, nuovamente in diretta, è il momento della nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah, buongiorno. Se solo potessero vedere quello che combini. Che combino? Che combini? Allora, a debita distanza. Che tanto per cominciare ti dico che ho un ospite che è già stato tuo ospite qualche mattina fa, quindi te ne rubo un po'. Vuoi salutare tu? Un po' di ospite? Sì. Vuoi salutare tu? Dottor Marco Griffini? Eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Marco Griffini è presidente e fondatore della IBI, l'associazione Amici dei Bambini. E allora di nuovo buongiorno. E abbiamo scelto stamattina per Soldi e Dintorni un tema molto delicato, sicuramente nuovo per noi, anche se parliamo spesso di famiglie con i figli. Recentemente abbiamo parlato del fondo Nuovi Nati, ci piace tenerlo monitorato per capire quante banche stanno aderendo al progetto sottoscritto da ABI e da Governo. Oggi invece con l'associazione Amici dei Bambini parliamo di famiglie adottive, famiglie affidatarie, di famiglie che naturalmente vogliono adottare un bambino, perché anche questo è un mondo che a quanto pare è interessato dal mondo dei finanziamenti, dei prestiti. Può sembrare molto riduttivo e anche molto superficiale da parte nostra trattare questo argomento che, come ripeto, è così delicato, però a volte anche l'aspetto economico scoraggia molte famiglie dal tentare la strada dell'adozione. Allora, siccome abbiamo scoperto che alcune banche si sono attivate anche con l'elargizione di prestiti a favore di queste famiglie, stamattina cerchiamo di capire intanto come orientarci in questo settore e cosa ne pensa l'associazione di riferimento di queste famiglie, appunto, di tutto questo. Presidente Griffini, non moltissime banche in realtà fanno questi prestiti, ma voi che cosa ne pensate? Poi magari darò anche qualche indicazione alle famiglie interessate, perché in realtà molti ci hanno scritto anche per avere qualche informazione in più. Sì, no, sono degli aiuti importanti, sono dei finanziamenti a prestito tasso agevolato, ne abbiamo in corso uno con una banca primaria, e sono aiuti importanti perché il fattore economico purtroppo sta incidendo negativamente sull'espansione delle relazioni internazionali, perché purtroppo in questi ultimi 2 anni abbiamo assistito ad una cosa incresciosa, cioè al calo delle richieste di disponibilità dell'adozione internazionale. Se praticamente noi abbiamo toccato un tetto al 31 dicembre del 2006 e dopodiché purtroppo sono incominciati un po' a scendere. La domanda che ci poniamo è il fattore economico il motivo di questo grosso calo? Perché abbiamo alcune regioni come il Veneto, per esempio, dove nel 2009 abbiamo assistito un calo del 30% rispetto al vertice del 2007, ed è una tendenza purtroppo generalizzata in tutte le regioni. E voi avete riscontrato, Presidente, che il fattore economico, ma appunto, come ripeto e come ho già detto prima, scoraggia anche È una delle cause, non lo era mai stato in passato, adesso è una delle cause, insieme alle altre, insieme così a questa cultura un po' negativa che purtroppo si è instaurata sulla situazione internazionale. Però indubbiamente il fattore economico, sentire molte famiglie, è uno dei fattori importanti. Noi, e infatti, no, perché c'è sicuramente tutta l'istruttoria da avviare per ovviamente verificare i requisiti per la famiglia. Ma quelle spaventano molto di meno. Esatto, no? Il tema è che molte famiglie spesso lo devono allontanarsi dal lavoro magari per 1 o 2 mesi per andare a contatto diretto con questi bambini quando sono molto lontani dal nostro paese. E guarda, anche di più, perché mi è tornata una coppia dal Kenya l'altro giorno ed è rimasta giù 9 mesi. Non le capisci cosa vuol dire 9 mesi stare giù, infatti. E quindi insomma la condizione economica è un aspetto assolutamente primario. Ho letto, Presidente, dobbiamo parlare di soldi, purtroppo mi rendo conto che legarlo a questo tema che ha tanti altri aspetti da affrontare, lo ripeto, può essere riduttivo o superficiale, però il nostro contenitore richiede questo, è importante. L'adozione può andare a costare dai 6.000 euro ai 25.000, è così? Eh sì, dipende dal paese, dipende dal tempo di permanenza, dipende dalle difficoltà delle pratiche. So, lei provi a pensare, per esempio, so, per adottare un bambino in Russia occorre andare 3 volte, fai quindi fare 3 viaggi, molte volte rifare le pratiche. Per adottare un bambino in Africa si può stare anche dai 5-6 mesi, 2 mesi per stare in Brasile, 2 mesi per stare, 3 mesi per stare in Messico. Quindi sono oltre ai costi delle difficoltà e delle pratiche burocratiche, perché poi sono famiglie che vanno accompagnate nella loro permanenza, quindi occorre avere delle strutture che siano al loro servizio. Cioè, certo. E poi chiaramente dei costi, si può fare un preventivo rispetto a quello che è il costo, per poi ovviamente tenere anche in considerazione che ci possono essere degli incidenti di percorso, degli imprevisti che naturalmente possono variare anche, no, quanto inizialmente stimato per potersi imbarcare in un'avventura così importante per la vita della famiglia. Sì, no, per fortuna quegli imprevisti possono essere, però ormai se l'esperienza degli autorizzati su questo campo più o meno riesce ad arginarli e prevederli. Però ovviamente è un fattore sul quale noi abbiamo cercato anche politicamente di incidere. Cioè, so che voi avete lanciato una campagna a favore della gratuità dell'adozione internazionale. Assurda, è una cosa assurda che delle coppie disponibili ad accogliere dei figli da un loro, che sono la maggior parte dei casi bambini veramente in situazioni pesantissime per il loro futuro, quindi queste coppie disponibili ad accogliere queste bambine debbono pagare così tanto. Questa è una cosa che non riusciamo a comprendere, come non possa rientrare l'adozione internazionale fra i doveri di solidarietà dello Stato italiano, per esempio, anche perché non sono poi costi rilevantissimi. Moltiplicando 10.000, 15.000 euro per 4.000 adozioni, insomma, arriviamo a dei tetti di spesa che potrebbero tranquillamente essere sopportati da un concetto di solidarietà dello Stato italiano. Volevo un attimo soffermarmi sulla questione dei prestiti dalla quale siamo partiti. Monte dei Paschi nel 2006 ha lanciato Sorriso di Bimbo, è un prestito fino a 10.000 euro, elevabile a 15.000 nel caso di adozione di più minori o per adozioni extraeuropee, si rimborsa in 10 anni di rate mensili, tasso fisso del 5%. Invece BNL e BNP Paribas, per studiare il prestito apposito appunto per questo ambito, so che ha chiesto la vostra consulenza. Che cosa avete studiato insieme, Presidente? Abbiamo studiato un po' tutte quelle particolarità che possono incidere nell'adozione internazionale, ma più che altro così diamo una sorta anche di garanzia a queste famiglie che chiedono questi prestiti, che vengono dati così senza tassi agevolati. Esatto, anche perché il tetto di BNL è un po' più alto, è un finanziamento fino a 30.000 euro da rimborsare in 120 mesi, quindi qui in un arco di tempo anche inferiore. Sì, poi abbiamo trovato una banca che è proprio un credito in questo nostro cammino di solidarietà e quindi ha accettato ben volentieri questa nostra proposta. Presidente, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma magari un ultimo messaggio per chi fosse Il messaggio è la speranza che non sia fattore economico ad allontanare una famiglia dal desiderio dell'accoglienza, perché sarebbe veramente un peccato dell'umanità questo. C'è qualche paese verso il quale lei, come dire, orienta meno le famiglie? Anche perché magari i costi per avventurarsi in certe aree sono assolutamente improponibili. Le devo dire francamente, noi abbiamo più o meno seguito 3.000 adozioni, però che il fattore economico non è stato mai una scelta di un paese. Ecco. Chiarissimo. Anche perché si orienta poi la coppia ad accogliere il bambino da qualsiasi paese provenga. Ecco, però ci spiacerebbe effettivamente se questo calo fosse determinato dalla condizione economica. Monitoreremo insieme a lei anche questo aspetto, Presidente. Griffini, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a tutti voi. Grazie. Noi lasciamo Alessandro Milan e noi ci risentiamo più tardi a Salva Danaio. E allora grazie, è partito una sigla. Grazie Deborah, ovviamente ci sentiamo anche domattina. Il sondaggio nostro di oggi, parliamo di carceri, c'è questo provvedimento che per far fronte al sovraffollamento delle carceri italiane prevede di far scontare l'ultimo anno di pena ai domiciliari. È un provvedimento voluto dal ministro Alfano, è un provvedimento che ieri il ministro Maroni ha attaccato duramente, è peggio di un indulto, è una cosa che non ci piace. Che ne pensate? Proposta svuota carceri, far scontare l'ultimo anno di pena ai domiciliari invece che dietro le sbarre. Siete d'accordo? Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Queste le notizie in primo piano. Il presidente greco Papoulias parla di un paese sull'orlo dell'abisso. Ieri scontri ad Atene per il piano di austerità approvato dal governo, 3 morti per l'assalto a una banca. Tra l'altro di Grecia tornerà a parlare Oscar Giannino alle 9. E oggi elezioni politiche in Gran Bretagna, 45 milioni di elettori chiamati a decidere il nuovo premier e assegnare le 650 poltrone del Parlamento. I conservatori di Cameron sono in testa negli ultimi sondaggi. In Italia il coordinatore del PDL Denis Verdini è indagato per corruzione in un'inchiesta della direzione antimafia in Sardegna. Nel mirino alcuni appalti relativi all'energia eolica, ma non mi dimetto, dice Verdini. Per lo sport la Coppa Italia va all'Inter di Mourinho, che nella finale secca all'Olimpico batte 1-0 la Roma, gol di Milito. Partita nervosa con Totti espulso nel finale per brutto fallo su Balotelli, e in serata Totti sul suo blog scrive: ero nervoso ma Balotelli è un provocatore, mi ha offeso e ha offeso una città e un intero popolo. Alle 8:34 minuti eccoci allora col nostro sondaggio, parliamo oggi di carceri. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Capisco che il tema abbia sempre poco appeal sui mezzi di informazione, il sovraffollamento delle carceri, perché c'è anche chi pensa che se uno va in carcere debba essere lasciato lì, buttata via la chiave, gettato nella Ghenna, nella fossa delle Marianne. Ecco, chi la pensa così può anche cambiare canale, perché siamo un paese di garantisti. Allora, le carceri scoppiano. Ah, questo è un altro refrain che si sente, troppi detenuti, e allora il governo ha pensato da un po' di tempo a dire attenzione, perché non facciamo scontare a chi gli manca un anno di pena questa pena ai domiciliari invece di tenerlo in carcere? Sarebbero circa 10.000 persone, si risolverebbe il problema. Questo disegno di legge cosiddetto svuota carceri, ieri il ministro Maroni ha detto, è peggio di un indulto, è una cosa che non ci piace, è una cosa che non vogliamo, concedere l'ultimo anno di pena a chi è in carcere, ai domiciliari. Che ne pensate? Questo è il nostro sondaggio. Devo dire che, come l'indulto, che è sempre stato considerato uno dei provvedimenti più antipopolari votati negli ultimi anni, anche questo, già devo dire, l'80% di voi dice, anzi aggiornando, l'84% di voi dice no. Nell'immaginario collettivo si dà l'idea di liberi tutti, eh? Non è proprio così, ma insomma ne discutiamo con due deputati, Nicola Molteni della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno. Che dunque sarà d'accordo, immagino, con il ministro Maroni. E voglio salutare Rita Bernardini dei Radicali, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro mi risulta lo sciopero della fame giunto a quanti giorni per questa vicenda? 22 giorni. Da 22 giorni lo sciopero della fame. Perché Bernardini sciopero della fame e perché? Mi spieghi perché questo provvedimento, secondo voi, è un provvedimento che ci vuole? Perché l'immaginario collettivo sa qual è, appunto. Che facciamo? Liberiamo chi sta in carcere? A parte che stare agli arresti domiciliari non vuol dire essere liberi. Ma io pongo un problema anche di sicurezza, quindi partendo dal punto di vista del ministro dell'Interno Maroni, perché in realtà è dimostrato con cifre che ci fornisce il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che chi accede a misure alternative e quindi anche gli arresti domiciliari ha un tasso di recidiva, cioè torna a delinquere, diciamo, per il 20%. Mentre chi sconta interamente la pena in carcere, senza accedere a queste misure, ha un tasso di recidiva del 68%. Quindi se parliamo di sicurezza, io credo che queste cifre siano molto chiare. Quindi stare in carcere, dice, è la vera scuola del crimine, come ma si dice, certo, con queste altre esemplificazioni giornalistiche. Soprattutto per come si sta nelle carceri italiane, cioè 22 ore al giorno chiusi in celle sovraffollate, senza igiene, senza cure, senza poter fare un'attività durante la giornata, significa che poi la persona quando esce da lì non è certo rieducata come prevede l'articolo 27 della nostra Costituzione. Allora, Nicola Molteni, onorevole Lega Nord, perché invece questo provvedimento, il ministro Maroni ha detto, è anche peggio dell'indulto, addirittura peggio dell'indulto, secondo lei? Ma innanzitutto perché io ritengo che oggi ci sia un reale problema del sovraffollamento delle carceri. Ne abbiamo più dibattuto, abbiamo provato anche in Parlamento alcune mozioni, però vorrei ricordare che oggi, anzi ieri, il ministro Maroni ha fatto queste dichiarazioni, ma già in commissione la Lega, il sottoscritto, aveva espresso alcune perplessità su questo provvedimento, perché se è pur vero che chi è in carcere, e se è in carcere lo è per qualche motivo ovviamente, però chi è in carcere ha tutto il diritto di poter vivere e di poter permanere all'interno del carcere in maniera dignitosa, noi con questo provvedimento abbiamo voluto spostare l'attenzione anche su un altro tema, non solo sul problema del carcere, ma in modo particolare sugli effetti che questo tipo di provvedimento avrebbe riportato poi in modo particolare sul tema della sicurezza. Perché se sono pur veri i dati che ha dato la collega Bernardini, io voglio dare un altro dato, dato che c'è stato fornito ieri in Commissione Giustizia durante l'audizione del vice capo della Polizia Ciriello, che il 30% di coloro i quali vanno ai domiciliari, e voglio ricordare che oggi ai domiciliari noi abbiamo qualcosa come 3.500 persone, con questo provvedimento andremo ad averne circa 11-12.000, il tasso di evasione di coloro i quali sono gli arresti domiciliari è pari al 30%, vuol dire che uno su tre solitamente evade. Un altro dato, proprio per riportare il tema del discorso anche su quella che è la sicurezza dei cittadini, perché è vero che abbiamo 70.000 persone che sono in carcere, ma è altrettanto vero che noi abbiamo 60 milioni di persone a cui poi dobbiamo dare delle risposte in tema di sicurezza, e questo è il governo, in modo particolare col ministro Maroni, che ha dato delle risposte serie sul tema della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata. Ieri il prefetto Cireo ci diceva che per poter effettuare un controllo ad una persona che è ai domiciliari servono 3 poliziotti. Noi avremo meno qualcosa come 11.000 persone, sì, se verrà approvato questo provvedimento così com'è, ma io le dico già che non verrà approvato con questo testo, in questa forma, vuol dire che noi dobbiamo prendere 33.000 poliziotti e carabinieri e destinarli esclusivamente a svolgere questo per un anno. Cioè stiamo, l'accusa di essere un po' ideologici, onorevole Molteni, viene da questo, cioè stiamo parlando comunque dell'ultimo anno di pena, cioè è vero, se invece rimanessero in carcere tra 12 mesi insomma poi sarebbero persone libere che hanno finito di scontare la pena, quindi sarebbe un provvedimento eccezionale, insomma. Bisogna metterlo a posto, no? Infatti noi abbiamo espresso le nostre perplessità, il ministro Maroni ha giustamente espresso le perplessità, adesso lavoreremo, noi lo modificheremo. Sai che in base al provvedimento, questo è un dato interessante, in base al provvedimento così come è stato formulato oggi, prevede una serie di limiti, una serie di eccezioni ovviamente oggettive e soggettive all'applicazione di questo provvedimento, sai che alla base di questo provvedimento, ad esempio, chi viene condannato per un reato di maltrattamento in famiglia può beneficiare degli arresti domiciliari, cioè noi mandiamo ai domiciliari una persona che è stata condannata per un reato di maltrattamento. Quello però è la legge, famiglia. Cambiatela in Parlamento, insomma. No, infatti noi, il ministro Maroni ha espresso delle perplessità, noi le avevamo espresse già a tempo addietro, adesso ci metteremo lì in commissione con la collega, con altri colleghi, per poter mettere a posto questo provvedimento, perché francamente che il provvedimento, ma un'altra cosa, sono tante le cose di questo provvedimento che non vanno bene, sì. Il fatto che questo provvedimento, ad esempio, e quindi la possibilità di poter applicare la detenzione domiciliare, che tra l'altro si accavalla anche con la detenzione domiciliare già prevista e già presente all'interno dell'ordinamento penitenziario, il fatto che si possa prendere questa misura automaticamente d'ufficio senza neanche sentire il magistrato, senza nemmeno che il magistrato possa formulare una relazione sulla pericolosità sociale o sull'idoneità di questo del detenuto di poter, cioè, questo non vi piace, è un altro aspetto che secondo me è sbagliato e che comunque lei l'ha detto chiaramente, secondo lei non verrà approvato così. Tra l'altro cerchiamo di capire anche la questione politica, nel senso che il ministro Alfano è un fautore del provvedimento, qui abbiamo la Lega, diciamo, impersonata da Maroni, insomma la nostra onorevole Molteni, che ha detto questo provvedimento non ci piace, c'è Rita Bernardini, insomma dei radicali fanno sempre queste battaglie da anni, che invece quindi sono all'opposizione, dice no, questo provvedimento ci piace, anzi no, onorevole Bernardini, vorremmo migliorarlo, io so che vorreste anche voi, vi battete per una amnistia, questa sia una cosa che fa arrabbiare molti italiani. Ma guarda, gli italiani dovrebbero sapere che in realtà l'amnistia è già in atto, perché in Italia ci sono 4 milioni di processi penali arretrati e ogni anno cadono in prescrizione 200.000 di questi processi, dove evidentemente ci saranno in mezzo anche dei delinquenti che la fanno franca con la prescrizione. Allora, questo problema non si riesce a risolvere e i magistrati hanno le scrivanie piene di questi processi e ogni tanto ne buttano via qualcuno, 200.000 all'anno, non sono pochi. Io volevo parlare però dell'esecuzione penale esterna, in cui rientra evidentemente anche gli arresti domiciliari, ma ci sono i lavori socialmente utili e tutte le altre cose. Bene, in Italia l'esecuzione esterna è arrivata a sole 11.000 persone, perché i tribunali di sorveglianza sono nella paralisi. Sapete quanti sono coloro che scontano pene alternative al carcere in Gran Bretagna? 243.000 e noi 11.000. Quante sono in Francia? 160.000 e noi 11.000. In più, questi due paesi che ho citato hanno anche il carcere. E quando si dice se uno è in carcere c'è qualche motivo, bene, io vorrei ricordare al collega Montani che quasi il 50% dei detenuti sono in attesa di giudizio. Sì. E il 30% di questi verranno poi riconosciuti innocenti. Però questo provvedimento va ad agire a chi ha una pena, ovviamente, no? Certo, ha una pena definitiva. Però quando mi si dice se uno è in carcere c'è qualche motivo... Non sempre è così, ci sono anche quelli in attesa di giudizio e dunque potrebbero essere anche innocenti. No, per il 30% risultano innocenti. Le carceri non sarebbero così piene come lo sono oggi se per esempio non si desse sempre la detenzione in carcere anche in casi che sono di lieve entità. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. E allora, bianco o nero? Parlo anche sulla sigla. Alle 8:47 minuti. Vedete, il provvedimento la gente come lo percepisce? Il 90%, mentre stiamo parlando, il 90% delle persone che stanno votando su Radio24.it dice no, non ci piace questo provvedimento che prevederebbe l'ultimo anno di pena ai domiciliari. C'è chi mi scrive, ma bisogna vedere se... se uno ha una pena di 3 anni vuol dire che gli si toglie un terzo della pena, ma non gli si toglie nulla, cioè l'arresto rimane, la pena da scontare rimane ai domiciliari. Certo, poi ci sono le opposizioni, c'è chi dice, come il ministro Maroni, molti di quelli che escono sono stranieri, non hanno neanche un domicilio, dove vanno? Molti di quelli che escono poi come li controlliamo? Insomma, queste sono le opposizioni che anche l'onorevole Molteni ci faceva. Qualche ascoltatore è caduto, Andrea da Roma invece c'è? Pronto? Andrea? Sì, buongiorno. Eccoci. Che dice lei? Guardi, lei mi ha anticipato, nel senso che io sono d'accordo in linea di principio di far ascoltare l'ultimo anno di pena ai domiciliari, però siccome la maggior parte di loro sono stranieri, questi in domicilio non ce l'hanno, a casa li mandiamo? Questo è un problema, pratico. Dentro una gabbia. Certo, è un problema pratico. Per esempio, molti rilanciano, scontino la pena nei paesi di origine. Questa è anche un'altra battaglia che vuole la Lega, onorevole Molteni. Però lì, se non si fanno accordi coi paesi, uno non è che è un pacco postale, uno può dare una persona, se un paese non se la vuole prendere, che facciamo? Mica l'abbandoniamo alla frontiera. Però il problema è una battaglia che voi cavalcate, mi sembra di capire, no? Ma sì, assolutamente sì. Io vorrei dire che noi abbiamo apprezzato il lavoro e l'impegno del ministro Alfano. Le dichiarazioni ieri di Maroni non portano a un contrasto all'interno del governo. È evidente però che su questo provvedimento il tiro vada assolutamente cambiato. Si citava prima, si toccava il problema dei detenuti extracomunitari, che non è un problema né ideologico né di razzismo, come spesso ne veniamo tacciati, ma è un problema serio. Circa il 40% di coloro i quali sono in carcere sono extracomunitari. Con questo provvedimento, se questo provvedimento venisse approvato così com'è, noi abbiamo su 11.000 detenuti che beneficerebbero di questo mini indulto, mascherato indulto, chiamiamolo come volete, circa la metà, il 50% sono extracomunitari. Di questo 50%, il 60% non hanno dimora. A questo punto io chiedo, e mi chiedo, ma l'ha già chiesto anche l'ascoltatore, dove li mandiamo? Qualcuno dice, li mandiamo nei CIE, centri di identificazione e discussione. Ieri il vice prefetto, il vice capo della polizia Ciriello, ci ha detto che i posti disponibili nei CIE in Italia sono 8. Quindi vuol dire che gli altri 4.990 li manderemo dove? A casa di qualche parlamentare? Questo infatti è un problema seri. È un problema pratico. Non possiamo trattare un tema come questo, che io ripeto, il detenuto deve avere il diritto di poter vivere dignitosamente nel carcere, però non possiamo scaricare sulla società civile, sul tema della sicurezza, no, un tema tanto delicato, un problema tanto delicato. Ma il mio non vuole essere un approccio ideologico, non siamo in campagna elettorale, non ci sono. Ma no, voglio dire, ma è qui a spiegare insomma la razza. Io ho letto qualche dichiarazione di qualche collega, la solita Lega, il solito ministro, ma no, noi tocchiamo con mano quelli che sono i problemi reali, e se il 90% di quelli che voi avete ascoltato, dubito che siano tutti della Lega, no? Percepiscono questo provvedimento come un provvedimento sbagliato. Ma vede, ma infatti è questa, secondo me, onorevole Bernardini, non è che su questo si fonda anche, non siamo in campagna elettorale, vero, ma lo zoccolo dura anche del fatto del perché la Lega poi va a intercettare insomma gli umori delle persone, vede, il 90% lo percepisce così. Certo. Posso dire una cosa? Se non si ragiona sulle cifre e sulla realtà, è chiaro, è tanto facile. Io prima ho ricordato delle cifre per cui nell'area penale in Italia ci sono le 67.500 persone più 11.000 che accedono a misure alternative. Nell'area penale della Gran Bretagna, quindi persone tenute sotto controllo, ce ne sono 243.000 più 80.000 detenuti. In Francia ce ne sono 160.000 più 60.000 detenuti. Quindi la nostra area penale è molto ridotta rispetto agli altri paesi. E si pensa che con il carcere si risolve tutto, non si risolve in realtà un bel niente, perché ripeto, le persone che escono e che sono state là dentro senza alcuna dignità sono persone che non hanno altra strada che quella di tornare a delinquere. Anzi, dice, pensate, è peggio. Per esempio ai tossicodipendenti, cioè ce ne sono almeno il 30% nelle carceri, sono persone che dovrebbero essere curate. Le persone tenute in quel modo, tossicodipendenti, quando escono fanno sicuramente subito dopo uno chip, una rapina per procurarsi la dose. Anziché curarle, le si tiene in quelle condizioni. Ecco, ma dov'è la sicurezza in questa politica? Secondo me non c'è. In prospettiva futura, lei dice, e continua a insistere su questo, sulla questione della recidiva, cioè chi sta in carcere poi commette, ha una recidiva, una propensione a commettere reati quando esce, maggiore di chi invece, non so, sconta le pene alternative. Salvatore da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io pensavo a questo discorso, è ovvio che se uno guarda i trend con cui sono aumentati in questi ultimi 3 anni le persone che sono in detenzione, vuol dire che è un percorso che sta crescendo. Quindi o ci mettiamo a fare delle amnistie periodiche come è stato fatto 3-4 anni fa, oppure si trova una soluzione a lungo termine. Una potrebbe essere quello che io ho pensato, di reimpiegarli in attività sociali, dando la responsabilità del controllo della persona, altrimenti parliamo di reati meno gravi, anche a privati che li possono reimpiegare nelle loro attività. Cioè reintegrare, che vuol dire? Insomma, uno deve scontare una pena, cioè forse si può scontare la pena, come si dice, non in carcere, ma non so, in altri ambienti, insomma, reintegrarli forse dopo, Salvatore. In ogni caso, voglio sentire anche Marco da Latina, vediamo se chiudiamo con lui. Marco. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo far riflettere un attimino tutti quanti sulla certezza della pena, perché in Italia si manda in galera chi è in attesa di giudizio e si manda fuori chi ha avuto una pena da scontare. Mi sembra un assurdo. Che vuol dire? Si manda fuori chi ha una pena da scontare? Che vuol dire? Scusi, la frase è un po'... Le spiego. Togliamo dalle galere chi è in attesa di giudizio, perché non ha senso. Sì. E facciamo rimanere nelle galere chi deve scontare. Invece chi deve scontare tra sconti, abbuoni, ma lì è diverso, sconti a buoni finisce la pena, è diverso, non è la questione. Lei dice non c'è, cioè, sconti a buoni fanno finire la pena prima, però mi scusi, togliamo dalle carceri che è in attesa di giudizio, cioè uno che ha ucciso 5 persone, un pazzo criminale in attesa del processo, lo vorrà tenere in galera, no? C'è il rischio di reiterazione del reato, no? Lo dimentichiamo. No, io per la carità, io la stimo, lei è una persona intelligente. Il problema delle persone che sono in attesa di giudizio non si risolve tirandoli fuori, ma si risolve dando, velocizzando i tribunali, velocizzando che è la strada e facendoli rimanere, se devono proprio rimanere, per quello che ha detto lei, giustamente, i tempi tecnici giusti e non gli anni. Ah, facendo i processi veloci, ma lei ha letto stanotte l'utopia di Tommaso Moro, vabbè, ma allora lo dica subito. Vabbè, Marco, chiudiamo con questo, certo, nel mondo perfetto sarebbe tutto bello, anche i processi veloci, così tutti o pena o non pena, dentro, fuori, è tutto fatto. Grazie Marco, comunque devo dire, onorevole Molteni, onorevole Bernardini, grazie per essere stati con noi. Il 91% dice no, questo provvedimento non ci piace. Vedete, 91%. Continuate a votare, do la linea a Oscar Giannino, ringraziando Sara Spreafico in redazione e Peter Bescapè in regia. Bianco o nero, è tradio24.it. A domani.